vecchia clientela della Pro. Elena, io vago nella mia stanza e mentre tu stai prendendo il tè in fondo all'oro d'un bel settembre, rabbrividisco per la tua salute. Hai la luna m'ossessiona. Ahimè, non me la sento di sposarmi. Sono troppo spregevole per questo, voi non siete abbastanza intrattabili. E vivacchio, vivacchio. Sono troppo numeroso per dire sì e no, mi sento troppo pazzo. Da sposato maciullerei la bocca alla mia bella e caduto in ginocchio le direi queste parole losche. È troppo, il mio cuore è troppo centrale. E tu non sei che carne umana. Non puoi, non puoi trovarmi tanto ingiusto se ti faccio del male. In verità, più ci si estasia insieme e meno si è d'accordo. In verità la vita è troppo breve. Donne e uomini, stessi pezzi montati in modo diverso. Lorenz Cabezza. Quando ti viene voglia di criticare qualcuno, ricordati che non tutti al mondo hanno avuto gli stessi vantaggi che hai avuto tu. Francis Scott Fitzgerald. Qualcuno una volta mi ha detto che il tempo è un predatore che ci aspetta al varco per tutta la vita, ma io credo che il tempo sia un amico che ci accompagna e ci ricorda di godere di ogni istante, perché quell'istante non tornerà mai più. Quello che ci lasciamo alle spalle è meno importante. Le moribonde parole dello Incas, secondo cui la morte arriva per niente, circonfusa di silenzio come una tacita ultima combinazione del pensiero. Carlo Emilio Gadda. Bernardo critica sempre gli altri, ma fanno parte così dello show. La diretta, la benvenuti da Terra dei Gatti, ultima puntata prima della mini pausa estiva, siamo qua raccolti nel buio degli studi culturali. Stiamo aspettando sempre un'altra parte di noi. Sì, dovevamo fare la riunione alle 9, ma come al solito gli orari non coincidono. Allora, siamo qua e stiamo ascoltando i The Go, ma è un disco che abbiamo fatto girare tantissimo dentro i nostri piazzini. Questa è tutto molto bene. Sì, tutto bene. Tutto bene, guarda quanti papere hai ammazzato questa settimana. Ehi, 7.000 pubblicità. Non ti smetti. Ma devo fare questo lavoro sporco. Ma dalle news quotidiane. Ma dalle news quotidiane facciamo dopo un altro pezzo o no? Subito così. Non c'è niente notizia sola. Sì, no, stavo leggendo il giornale del giorno prima, perché quello del giorno dopo. Quello del giorno dopo non si sa dov'è. Allora ho cercato nel sacchetto della carta e ho trovato questo di martedì 9. Ci sono delle notizie che possono essere ancora. Delle notizie molto interessanti, tipo la Toscana è diventata una giungla, ha catturato il boa a caccia alla pantera. Sai cosa è successo? Sì, ci sono degli animali selvaggi sparsi nelle campagne toscane e i nostri pompieri sono arrivati. Servizi anti-belve feroci. Va alla ricerca. Sono alla ricerca. Allora, io direi invece di andare avanti con la musica, con un gruppo che ci ha portato la Saretta. Parlaci un po' di questo pezzo. Ma non è che ci abbia molto da dire, in realtà. Sono i Bordelot e sentiamo la console, visto che siamo in console. PS1, PS2, PS3, PSP, Portable, Super Shot, Xbox. Le Dreamcast, Nintendo, mais avant tout, la Mega et Commodore. Moi, à la console, je m'y console à la console. Consolati dalla console, non ci sconsoliamo mai noi, specialmente stasera sono io in console, più consolato di così, siete d'accordo? Ma se no, andate, se prendete, andate via, quasi quasi la radio è mia, quindi perché ti pare? È tua, no, la radio non è tua, chiedi scusa al direttore perché se no non ci dà le maglie. Questa radio è mia, oh, l'ho comprata in borsa. Sì. Saldo. Con i bond argentini. E quanto era lo spread? Ma sai che sono al bar, cioè ora girano molto queste parole, no? Però la gente le usa a sproposito, tipo mi fai un aperitivo, cosa ci vuoi? Mettici un po' di spread. Sì, sì. Perché la gente sente queste parole però non ha la padronanza. Un sacchetto di bot. Un sacchetto di bot. Un sacchetto. Vabbè, di bot. A carnevale. Io sono. Senti, siamo tornati a Radio 24, senza base, senza niente. Base. Allora dove se tipo ti dimentichi di dire una cosa, non passa più. No, allora, visto che abbiamo così scavalcato, come possiamo dire, il limite musicale, possiamo andare avanti su questo. Sì, sì, io l'ultima serata la farei stupida, quindi. Senti come la nave è pronta al varo. No, io più che altro vedo dal porto perché della terra dei cachi ci sono tre splendidi marinai con nomi indecifrabili perché eccoci. Curu, cucu, cucu, stai. Curu, cucu, da mix. Zoom. Come on. Tom. Yeah. Tom. All right. Tim. Caruca chiqueta, dubi du stas stas. Hey. Curu cu curu cu cu stas stas. Curu cu curu cu cu stas stas. Curu cu curu cu cu stas stas. Caruca chiqueta, dubi du stas stas. Curu cu curu cu cu stas stas. Curu cu curu cu cu stas stas. Curu cu curu cu cu stas stas. Caruca chiqueta, dubi du stas stas. Gasdrolia. Dopo mamma mia Bernardo, non sento niente. No, guarda, fagli il cazziatone Gianluca, te lo fa sempre a te, quindi no, ho capito perché il volume era messo male. Sì, no? Certo, sei vecchio Bernardo ormai. Vecchio. È tanti anni che non sponsoravo un po', però dovete essere anche obiettivi. Sì. Mi disse la mia macchina fotografica un giorno. Ma perché? Allora, c'è qualche notizia interessante, la posso dire io? Sì, sì. Allora, visto le due ore che non la dici, a Milano una sentenza che fa epoca, che fa storia. Cos'è? Cos'è questa notizia? Il giudice: gatti liberi nel condominio sono animali sociali. Quindi 44 gatti in fila per 6 col resto di due, si può. Il resto nel bue? Senti, qui è arrivato una presenza così che mi sta danneggiando, cioè sono un po' così, mi sento un po' così, come si dice, no? Com'è il nostro governo adesso, no? È un po', capito, così che c'è, oppresso. No, c'è il governo europeo che l'ha precettato, no? Gli ha detto devi fare questa cavolo di cosa qua e noi italiani ci dobbiamo adeguare. Lo stesso io mi sto adeguando, c'ho un... C'è una presenza dietro che è più mastro DJ, più pesante della tua ombra. Mamma mia, davvero, ripeto, quasi quasi mi alzo e me ne vado, eh. Metto un pezzo. Infatti ti sta toccando la schiena e fa, sì, c'è già il CD c'è già il CD dentro. È la 8. È la 8? Sì, penso che debba solo pigiare play. È difficile? Sì, forse. Provo? Sì. Prova, vedete, prova. È anziano, quindi... Succede un abuso. Ma che è sta musica? Che cos'è? È giusto che ci siamo le ronde, i giustizieri del quartiere, pronti a sparare addosso a questi teppisti, questi 200 teppisti inglesi che hanno messo a ferro e fuoco tutta la Gran Bretagna. Sparategli addosso con i cannoni d'acqua. L'apocalisse. No, infedeli. È meglio con i cannoni di fumo, così non si muovono. Comunque devo dire più. Che sono molto deluso da questa rivolta dei paichi inglesi, perché cioè questi spaccano tutto per rubarsi le scarpe e i televisori, cioè. Nemmeno il CD, cioè nemmeno il CD di che ne sono rubato. No, niente, televisori al CD a LED, poi scelgono anche scarpe da tennis rigorosamente firmate e felpe con cappuccio. Questi sono i loro oggetti. La felpa col cappuccio serve. Sì, sì. In fondo gli girano le palle perché non hanno i soldi per comprarsi le scarpe da tennis, quindi spaccano la città. E questa è una cosa molto positiva. La vedo molto allineata. Poi cioè, c'è un contenuto poi sotto, no? Sì. Ecco. Che sarebbe? Aiutateci a trovarlo. Infatti. No, fanno bene se distruggono. Scusa. Vabbè, se ci fosse Alessio qui che saluto, sicuramente si schiererebbe dalla parte. Io sono sempre dalla parte di chi protesta, però quando esiste comunque una ragione, cioè quando c'è un moto interiore che ti spinge anche a rischiare, ma non per andare a rubare le scarpe. Questo direi. Mi sembra proprio una cazzata, scusate. Vabbè, se le bandiere pisane saranno del terzo millennio, quindi ci può stare tutta, no? Quindi io sono contro questa rivolta inutile. Poi al di là dell'omicidio della polizia, che è una cosa schifosa, che è giusto che vada perseguita. Ma l'omicidio perseguita. Della polizia, nel senso che l'ha commesso la polizia? No, pare che la goccia che abbia fatto scoccare la scintilla sì. Cazzarini quando parli dei cadaveri. No, vabbè. Sia stata appunto l'uccisione di questo pregiudicato, che sì, era armato, però non aveva opposto resistenza armata, è stato diciamo preventivamente colpito, pare, e quindi questo ha scatenato un po' la rivolta dei pregiudicati, dei quartieri più pericolosi delle città inglesi. Però devo dire che tutto questo sta sfociando, come leggevo anche su internet, in furti indiscriminati di prodotti che poi sono sempre gli stessi: scarpe da tennis, televisori e altre cose simbolo, cellulari, queste cose qua. Quindi c'è una protesta veramente ridicola, cioè, insomma, bastava tirargli una camionata di cellulari e stavano a casa questi, insomma. Certo. C'era bisogno di ucciderli. C'era bisogno di ucciderli. Anzi, un suggerimento forse. Proponiamo al governo inglese di scaricare 2 o 3 tir di televisori e scarpe da tennis e si calmeranno. No, io invece non sì, dico... soprattutto se li scaricano sopra direttamente. Esatto. Più che altro non c'è bisogno di nascere. Stereo, move it. We move the train and carry on. Move it. Ah, nah, nah. Move it. One time, let's give it all a go. Move it. Push it on up and let it blow. Move it. Might be the end, but you don't know. Move it. Ah, nah, nah. My favorite, I might fly with it and I might drown in it. I might look aside of it, but I can't ignore it. Don't be the ignorant who turns his back on it. And now we win the race, and now you show your face. If you can find your place, then we can show you how to send it to outer space. carry-on, so you can skip the barrier and move it to your area, so we can bust your radio and speak out to the speakers and scream out to the sleepers. They freak out when they hear us, cause we make beats like gorillas. In this giant country jungle, the digital monkeys on a move. Talking straight, we never mumble, making sure your dancing feet will move. detto non è male, no? Come, no, no. Come nella televisione che ci mandano tre brani a diritto. In diretta, in diretta con voi questa sera, è tornato puntata prima delle vacanze della Terra dei Cachi. Alla Terra dei Cachi le vacanze cominciano la mattina presto. Ma cosa stai non dicendo? Non si beve il caffè alla Terra dei Cachi. Vedi, eravamo partiti bene, cioè via, basta. Eravate partiti bene, allora io ritorno davvero prima. No, ascoltiamoci questi ultimi tre minuti di Lali Puna. Oh, mamma mia, come sono bravo questa sera, guarda proprio. E lo dice anche. Questa è una trasmissione di perfetti quasi, direi. Di perfetti. Di pere. Mamma mia, mi fai morire da ridere. Raccomandazione: quando terminate la trasmissione, lasciate la porta dello studio leggermente aperta per cambiare aria e ossigenazione e strumenti. Vorrebbero dire che si puzza. Ma io l'ho sempre raccomandazione, sostenuto. Raccomandazione: quando terminate la trasmissione, andate a casa a lavarvi, perché vi siete contaminati con tutti i fiati. Bernardo leggi una mia poesia. Voi leggo una tua poesia? No, io non gliela leggerei perché non avevo. No, e dopo ci mettiamo la di contratta, no. Se mette questo gli leggo. Allora io leggo una tua poesia, se dopo mi fai ascoltare un pezzo dall'album di Gianni Giannini che si titola Topa Nera. Va bene, ma non Topa Nera nel senso come, ecco, to Panera. Puntini, Panera. Panera sarà il suo cane, penso, no? Sicuramente, guarda. Chi è che non ha mai sognato di avere una cagnolina nera e chiamarla Panera? Così quando poi la chiami per mangiare, to Panera, to. Così tutti così gli animi si eccitano, si scaldano. Ecco che sono preparato dopo questa cosa che ho detto, sono prontissimo a leggere una poesia. E non so, a casa, se volete un attimo allacciare le cinture di sicurezza. Sentiamo già che ha cambiato tono di voce, è venuto. Ecco, sedetevi, allacciate la mascherina è sopra il soffitto. Ma mette il sacchetto del vomito e nella tasca. Scorsa, cioè cambiando da verso a verso interpretazione. Se vuoi, io farei Sara, così. Dimmi te come sono, sì, nelle tue, sì, mani. Dimmi vai, te come vuoi. Leggila come la dimmi settimana come mi scorsa vuoi, era bella. Va bene. ci proverò, però forse a questa velocità non so se riesco a leggere. Quello è il suo bello. Ma scusa, ma vuoi un racconto o una... Voglio una poesia, perché no, la poesia è la sublimazione dell'attimo, del pensiero, del cuore, dell'amore, del sesso. Aspetta un attimo, questo non sono poesie, ui. Ah, non sono poesie? No, sono fuori dal linguaggio, ui. Il siciliano che fa non so, dimmi tu, sono un attore a vostra disposizione contro la pretesa di dirsi poeta, virgola. Vabbè, questo è il titolo. Aspetta, troviamo anche un brano adatto a quello questa ambientazione. Vai. Sì. Nel frattempo può contro finire la pretesa la terra dei cachi che mancano tre io minuti. Io intanto continuo contro la pretesa di dirsi poeta, virgola. Contro la pretesa di dirsi poeta, virgola. Contro la pretesa di dirsi poeta. E poi rimbalza sull'incognita dell'io per carezzarsi inevitabilmente, per coccolare il sogno e quel che resta. E basta leggere! Egli spende parole e uncini, macellai maiali glossolalici e proni a ricattare un suono all'invariante io e leggero interpunto di non respiro, punto di non frastuono, frastuono nella testa, nella pancia. E poi non sopporta momenti tagliati e dividere atti in attimi minimi. Non vuol darsi di nuovi abbandoni e non sa il che del dire e non del non dire nulla, ciò non muta. Egli stava a gorgheggiare lume, egli stava solo istruendo un momento mortale di suono. E qui io la chiuderei, cioè, così anche sì, per rispetto, sì. Dico. Sì, bravo, soprattutto, guarda. Scusate. Prego, prego. Maremma, stamattina, come piaccia? Sarei rimasto a letto ancora un po'. Mi sono alzato presto per andare a caccia. Hey, l'ho già promesso a Mario, ormai ci vo'. Ho girato tutto il giorno per la valle, tra vigne, campi arati e cieli blu. Meglio che stare a casa a rompersi le palle, dove non te le fanno usare. Dai, possiamo sfumarla questo. No, ma dai, tutto era bellissimo. Ma bellissimo, hai rovinato il momento. Basta, non gli leggiamo più poesie, perché ha contrattato di mettere una canzone per una poesia e non sta mettendo la canzone. an idea someday. In my tears, my dreams. Don't you want to see a proof? Life that comes does no harm. You and I, you and I. Siamo qui a decidere che pezzi mettere, perché la scaletta nostra è il computer fa un po' le bizze. Intanto volevo approfittare, c'è stata una discussione importante sul disco di Topa Nera. C'è chi lo ha eletto sul trono e chi invece l'ha buttato nel fango così senza neanche ascoltarlo. Così, no, io a livello pregiudiziale l'ho preascoltato, quindi il mio è un pre-pregiudizio, capito? C'è un pregiudizio che viene prima dell'ascolto. Capolavoro del, secondo me, sta un po' ritornando dell'800, no? I B-movie anni 70 sono stati ora tutti rivalutati. La sera fanno gli speciali con Thomas Milian, che già due o tre film sto a guardare di Thomas Milian. Ma noi non siamo conformisti, non bisogna essere conformisti. No, ma io voglio sapere se c'è qualcuno all'ascolto che quando uscivano i film di Thomas Milian andava al cinema a vederli in quell'epoca lì, non adesso. Oggi fa quasi normale, no? Io sarei andata. Te saresti andata, sì, no? Perché io quando ero piccino, mi portavano al cinema, mi ricordo, no? Perché c'è un'età che vai a vedere i cartoni, vabbè, poi dopo c'hai un'età, insomma, 10-12 anni, no, vabbè, che vai ancora con i genitori, però vai a vedere. Allora, mi ricordo che c'erano due filoni fondamentalmente, c'erano i film di Celentano, che erano i vari, Bisbetico Domato, eccetera, eccetera, e il filone di Bud Spencer e Terence Hill. E all'interno di questi due film si sviluppava anche una visione, diciamo, sulla società moderna. Per esempio, il film di Terence Hill e Bud Spencer, ho saputo adesso che erano un po' la trasposizione della lotta di classe, no? Che c'erano questi personaggi un po' così anche Fantozzi, il colletto bianco, no? Sì, sì, c'erano un po' queste trasposizioni, mentre Celentano era un po' posto come Berlusconi. Celentano rappresentava un po', secondo me, molto il personaggio proprio Celentano, anche nei film, anche se interpretava ruoli diversi, era sempre lo stesso personaggio, cioè questo personaggio un po' così leggermente arrogante, un po' così faccio tutto io, insomma, no? Un po' un supereroe della borgata. Un po' anche i film di Celentano, però. Beh, sì, sono bello, molto bello. Politici comunque. Molto politici? Ma guarda, non, sì. Non molto. Ma cioè, diciamo che di sì. C'era sempre questa figura del burbero, amante della natura, che diciamo si distaccava un po' dalla massa, questo individualismo. Autarchico. Sì, autarchico, certo, che voleva un po' dare l'esempio a tutti, no? Un po' questo che però devo dire era piacevole, no? Perché in fondo quando trovi una persona che ha questi sentimenti così puri, che anche se li manifesta in modo non democratico, insomma, quando c'è una persona che ha pure i sentimenti è una persona che ha paura i sentimenti. Ora iniziamo con... Ora non entriamo nella psicologia. Comunque la sera dovevamo parlare di un grande evento. Sì, no, c'è va bene, un grande possiamo evento. Parlare anche dopo, mettiamo quando un pezzo. È già passato. Sì. È tre ore che parliamo. Un grande evento, ragazzi, basta, un metti un pezzo. Per bello, favore. Perché questa è una battuta veramente... che mi sono venuti i brividi dal freddo. Oh, dopo l'opera da quattro soldi, c'è la battuta da quattro soldi. Di Brecht? Bertolt Brecht. Umberto Brecht. Umberto Pone, avrebbe detto Giannini. No, in una delle sue detto... mitiche battute. Per ritornare da dove siamo partiti, no? Tra l'altro sono... saluto la figlia di Gianni Giannini che ho conosciuto tanti anni fa, Eva Giannini, non so se è ancora in giro così, per l'Italia. Ah, sono le 23.09, 37 e 38... Io manderei l'ultimo brano. Mamma mia, sì, va bene, sì. Anche direi perché, di sì. Sì. Un pezzo. Sì. Vai, anche un pezzo. Changing, it's all right. trovato l'uccello. Oh, perché questo è un periodo di sagra, ragazzi. La sagra del cretino. Dove si balla e si diverte. Questa è un po' la musica che va in voi di più, eh. Questa dell'uccello, secondo me, la ballano e la svolazzano tutti. L'ho trovato là sì. dentro il castello. L'ha trovato nel castello, eh? C'era un film di Rocco ambientato nel castello, in effetti. Scusa, non sentiamo bene il testo. Che... Potresti alzare un po' la voce, scusa. Non mi pare molto contento. Paladino, tu... Sicuramente. No, perché chi avesse il 45 giri di questo pezzo... È magari... un povero disperato, no, però... secondo me c'ha un valore... morale. Al colore del rosso secondo fringuello. Me ha un valore molare. Non sente, ha un valore molare. Eh? Ha un valore molare. Molare. No, guarda, no. Sì, nel senso orale l'uccello ha un valore. vabbè, riferito all'uccello, no? Insomma, c'è nessuno che c'ha questo disco acca, nella sua collezione. Ma poi è bella la foto. La foto tipo... un po' da fotoromanzo hard. Ma... anni 70. Non so, chi l'avrà scritta sta canzone? No. È un mistero. Non lo so, però stavo meglio prima, sinceramente. Poi non finisce mai. Ma che uccello questo? Avete contato quante volte dice anche. Uccello durante la canzone? No, come lo dice poi? Uccello. Uccello. Ora in gabbia non vuole più entrare. E non ci vuole più entrare, la gabbia. Troppo, quindi... è uscito la gabbia. E boh, e sono cazzi tu. Mi sembra un po' capito leggermente allusiva. Ma secondo te prima o poi finisce sta cosa? La puntura l'ha fatta di già. La puntura l'ha fatta di già. Chi è che ha fatto la puntura? E la puntura forse sarebbe sì. per la puntura. No. Mamma mia. No, non è ancora finita. Conti vedi tutte le volte sembra che finisca. Ma questo è come il cantante lì. Com'è il cantante del Sting? Che cioè lui insomma si dice che abbia rapporti sessuali che ma non è vero, ma non è vero. No, ha comprato un uccello con un uccello? Con un pappagallo? Con Sting. Con Sting. Con Sting. 7 ore. In questo modo accidenti, ci incastrava fa anche la lavatrice, non so. Però così ma magari nel frattempo stava facendo anche quello. Il comodino. Cioè oh, e finalmente è finita questa cosa bellissima dell'uccello e... La prossima è Veronica, lui me lo dava. Non so se no, se possiamo inoltrare anche questa oppure cambiamo decisamente genere. Sì, io prima di andare via ricorderei un appuntamento. Un appuntamento, prego. Un grande evento. Un grandissimo evento che c'è mazza, domani. La foto è fantastica, veramente. Sì, è vero, è vero. Lo abbatte domani, giovedì 11 agosto 2011. Che cosa c'è? L'aperitivo rock. C'è l'aperitivo rock. Fantastico. È l'onomastico di Chiara, c'è l'aperitivo rock a San Gervasio dalle ore 19 in poi. Stop wow. Onomastico. Devo festeggiare l'onomastico. Sarebbe aperitivo, cena e dopo cena con musica rock e metal 70-80-90. Mamma mia, alla ragazzi, console il gotto. Di solito l'aperitivo vino è ambientazione rilassata, euro, invece alcolici, 4 euro per chi spezza. Vuole cenare. Abbiamo antipasti e primi piatti. Wow. Oh, buono. Quanto, quanto costerebbe tutto questo? L'ho detto adesso. Non lo ricordo più. Perché? È vecchio ormai. Accettano carte di credito? Ma non lo so. Bicchierino quindi, 3 euro. Quindi io vi consiglierei di andare a San Gervasio, non è lontano da no, qui. No, poi San Gervasio c'è il vino buonissimo. Buonissimo, il vino di San Gervasio. 3 euro, bisogna vedere cosa che aperitivo sarà, non so. È un bicchiere di vino, con i crostini, le patatine, un aperitivo normale. Oh, io mi piacerebbe veramente una così, prima di andare in ferie, di ascoltare una canzone di Albano e Romina. No, perché non so mettono musica rock. Se siete d'accordo. Ma perché non si capisce quello che dico? Metti un pezzo, aspetta, metto io un pezzettino. Metti te un pezzo, Puccio? Metto io un pezzo. Metti un pezzo? Metti un pezzo. Ora che facciamo? Andiamo il brano intanto. No, lo mette un pezzo lui. Non so. Mette un pezzo. E intanto che aspetti, facciamo. Intanto che pezza lui, mettiamo un altro pezzo noi. No, dico, ma San Gervasio è anche il luogo di un. Un romanzo è stato ambientato a San Gervasio. Eccola, attenzione, reggiamoci forte. Reggiamoci, sta per dire, attenzione, a San Gervasio. No, non è una battuta. Ah, no, non è la battuta. Cercava San Gervasio su internet. Beh, comunque, non ricordo. Beh. Forse lo scopriremo nelle prossime domani puntate. Domani a Santa Chiara è San Gervasio. No, ho sbagliato. Domani è Santa Chiara e a San Gervasio c'è l'aperitivo rock. Venite pronto, numerosi, Buccio? Mi raccomando. Sì. Numerosi, molto numerosi. Ma lì all'agriturismo San Gervasio? Ah no, sì, ho capito. Al circolo, circolo San Gervasio. Circolo AC San Gervasio. Quindi, allora, siamo pronti? Non so, l'alluvione. Ce la possiamo fare? L'alluvione. Che dobbiamo mettere sto pezzo? L'alluvione di Riccardo Marasco? Sì, da fa due risate. Ma che cos'è? L'alluvione di Firenze. È bella. L'alluvione le campane. No, poco campanilistico. Piazzala e poi vediamo, L'Arno Stradipa a Firenze. Giochiamo a Straripa. Oh Rosa, ma che l'hai uso l'acquaio ieri sera? Madonna, ma che è che... Oh Rosa, una ranocchia in bocca. La solita storia, la sorella di pian di sopra, il suo marito le andava in bagno e le la fa pisciare il figliolo dalla finestra. Su mi fiori, a Gesilao, va di gnar che cosa te si una quilla buriana. Vabbè, andrò Rosa e andrò a vedere, ma... Oddio Rosa, che è successo? Ma che mi sembra Marco Maltone? Quanta roba gialla e passaro, mammina, so stecchetti sull'armadio, in dove torna di casa? No, sì, è la stessa vena surreale, artistica. Nuoti sommerso in un mare di cacca, non sai se d'uomo oppure di vacca, non sai capire il che t'è successo, ti pare troppa per essere d'un cesso, e mentre cerchi di restare a galla, l'Arno trabocca laggiù dalla falla, scorre veloce per via Tornabuoni, al Davide lava fremente i coglioni. Sei trascinato per via Calzaioli e pensi che ieri dicevi a figlioli sarà ma domani maremma puttana le pioggia, c'è un callo che segna buriana, tutto ad un tratto sei nel battistero, ti par di sognare ma invece l'è vero, quel mondo dorato di santi e Gesù lo tocchi con mano, l'è sceso qua giù, ma sei vomitato e gettato in via Roma e ridi pensando alla chioma che porger le schiava dovea la vittoria, e poi come Pisa l'ha presa in meloria e via bordeggiando per mille stradine, in 4 e 48 sei già le cascine, là dove c'erano tanti finocchi adesso ci cantano quattro ranocchi, fermati palle, via fermati adesso, lascia che l'acqua ti scorra un po' addosso, attaccata a un palo su non fare il cazzo, alla corrente la ti porta, diciamo che via, è un racconto, una cronostoria in modo così divertente, allegorico, di un evento catastrofico poi in fondo. Tutte le statue che sono sul piazzale, è finita, continua ancora, ma questo è triviale. Oggi è la serata delle canzoni che non finiscono più, non finiscono mai. L'ebriaco gridò l'Oferne con la Giuditta e la Medusa che l'è la più dritta, perché Perseo con ascia volata sui pelo dell'acqua la testa gli arzata. Addirittura citazioni della mitologia. Per questa gran lagna cerchi il rifugio alla loggia di Orcagna, dove il romano fa becco il Savino, gli soffia la moglie e lo lascia ricchino. Anche in Marzocco non sa più cosa fare, perché i leoni e un sanno nuotare, senza costume sta lì tutto nudo, speriamo che l'acqua non mi freghi lo scudo. Non hai più salvezza, non hai più speranza, ovunque c'è cacca in frenetica danza, e trascinato dall'onda feroce giungi stremato in Santa Croce. Dante di marmo, poeta divino, mira sdegnato l'immane casino. O fiorentini, mi avete esiliato, prendete la merda e Dio va mandato. Addirittura è una vendetta di Dante. Lo straripamento dell'Arno, ragazzi. Comunque, gli Angeli del Fango, famosissimi studenti universitari da tutto il mondo che ripulirono le opere d'arte fiorentine. Questa è storico, insomma. Sì. se ci fosse stato Gianluca, anche Gianluca avrebbe sicuramente lucidato le palle al bianco. No, secondo me avrebbe scritto una canzone come questa, dai. Ultimo pezzo. Un altro pezzo vuoi mettere? No, è entrato in forma, su, su richiesta. Su richiesta. Ci hanno telefonato ora, ora. Adesso. Gli hanno detto via, già che ci siete, mettete. Secondo me siamo isolati come l'altra volta. Questo presentimento. Dai. Mettete Teresina. No, c'era già Teresina, dai, Teresina. Un classico. Classico. Poi dopo si va a letto, bimbi, perché ora avete un po' abusato del gioco. Scompari Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Quanto è vero che c'è Gesù? Si andò a un ricevimento fra te colte brillanti. La si scaccolò guanti, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Quanto è vero che c'è Gesù? Si andò dalla Ruggini a prendere una pasta. La se la mise in tasca, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Quanto è vero che c'è Gesù? Te la portai dai vivoli a prendere un gelato. La disse, l'è marmato, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Quanto è vero che c'è Gesù? Volea giocare a biliardo, s'andò ai Gambrinus Halle. La mi toccò le palle, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Quanto è vero che c'è Gesù? San diede alla prima di maggio musicale e la fece per le scale, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Quanto è vero che c'è Gesù? La venne al ristorante con l'unghie nere in vetta, le pulì con la forchetta, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Quanto è vero che c'è Gesù? Personaggio sta Teresina, deve essere stata veramente una tipa, secondo me, divertente anche, no? Sì. Chi è che non vorrebbe avere come amica Teresina? Che così la trovi al bar e prende una pasta, se la metti in tasca e dici vado a casa a mangiare. Un tavolo tarlato, disse, per me l'hai usato, la mi fece scompare. Ma poi Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Più, ti ci porto più. Questa Teresina ha fatto girare il mondo. Questa, e la volea un bitterre, sandiai dai bottegone, mollò tre curegione, la mi fece scompare. Ora che stiamo entrando nel trash, Teresina, non ci porto più. Quanto è vero che c'è Gesù? Sentiamo un po' le avventure di Teresina. Teatro, per vedere Stenterello, la mi stenterello. Il pisello, la mi fece scompare. Teresina, non ti ci porto la disperata. Si andiamo a un'altra città, almeno non ci conosce nessuno. La portò a Roma. Ma cosa vuol dire Stenterello? Sandò a Montecitorio, niddi dell'assemblea, ni via in sella diarrea, la li fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci... E c'era il presidente della camera che gridava, gli usceri con il secchio, gli usceri con il secchio, gli usceri con il secchio. E gli usceri, si vuole l'indennità, merda. Ma dice, allora torniamo a Firenze, fa la gente bene, almeno la si eleva. La portò via Tornabuoni, è sempre una bella strada lì, come tu caschi bene. Oddio, sono tu caschi, l'è meglio, voglio dire. Ma insomma, appena ti arrivi tu senti subito qualcosa nell'aria, vero? E la volea una borsa, te la portai dai Gucci, la fece, che prezzucci. Ma come prezzucci? Ma se quelli ormai sono negozi per sadomasochisti che vanno lì per provare il brivido del rialzo. Scusi signorina, quanto viene quello stivale più di ieri? 350.000. Oh, che goduria! San diede da Giacosa, un bar di quelli fini, la chiese due quartini, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Possiamo... C'è altri luoghi dove Teresina non è ancora andata. Nella zuppiera, la ci perse la dentiera, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più. Senti che c'hai in mano il cursore, cioè, quando vuoi... Ma vuoi sfuma? Non può, chi non può vederlo, stava morendo sulla console. Possiamo mandare. Te lo spettino con Rutto, la mia ecco, con Rutto io ti direi con Rutto. Direi con Rutto, sì. Ok, allora salutiamo. Salutiamo, ci sentiamo mercoledì prossimo, una puntata speciale, mi dicono qui dalla regia, con un numero zero per questa puntata misteriosa, no? Sappiamo bene cosa avverrà. Le redini della trasmissione saranno puntata, in mano Marco sorpresa. Giallo, Puccio, non so chi altro. Mistero. Carlo sarà di sicuro perché è in Sicilia. Io nemmeno perché salutiamo sono Carlo, se non so se ci ha ascoltato da Pachino. Lo questo so. Lo decidiamo dopo lo so. Perché ora, ora salutiamo. Non sappiamo ancora nulla. Può darsi anche ospiti a sorpresa. Chi può ma dirlo? Chissà. Allora, mercoledì prossimo alle... sicuramente ci saranno delle gran fighe. Le porteranno. Sicuramente perché non ci saranno noi. Delle signorine. Sicuramente. Utilizzeranno il mezzo radiofonico per, in modo spudorato per raggiungere il triangolino che ci salta. Andiamo a letto, via. Ok, buonanotte, buon anno, buona Pasqua. Ciao a tutti, a diciamo, mercoledì. Diciamo pure che mercoledì prossimo, se non funziona lo streaming, non è un problema del web. Oh.